Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, bentrovati da Deborah Rosciani e Salva Danaio, buona giornata a tutti. Ogni giorno ne abbiamo una, stamattina ci siamo svegliati, anzi ieri sera siamo andati a dormire con il declassamento dell'Italia da parte di Moody's. Abbiamo ben 3 gradini in meno, tutti in un colpo solo. Niente paura però stamattina sul mercato, perché il mercato in qualche maniera sapeva che questa misura era in procinto di essere comunicata da un momento all'altro da parte di questa agenzia di rating. Ci aveva fatto un po' più male un paio di settimane fa l'improvviso declassamento da parte di Standard & Poor's, ma a parte quello che stabiliscono ogni giorno le agenzie di rating, ma a parte non tanto, perché in realtà anche sul tema di cui parleremo oggi il comportamento delle agenzie di rating c'entra, ad agitare le acque europee negli ultimi giorni, oltre a tutte le notizie che a getto continuo arrivano da Bruxelles, da Atene, riguardano appunto la gravissima crisi greca e lo spauracchio di un domino europeo, ad agitare le acque, dicevo, è arrivato il caso Dexia, un caso in verità ben noto da tempo, ma il quadro di difficoltà di questa banca franco-belga ha iniziato a precipitare da lunedì. E l'allarme ha cominciato a suonare particolarmente forte dopo che si è venuto a sapere che, a seguito di un consiglio di amministrazione d'emergenza, il gruppo avrebbe aperto la porta a nuove cessioni ad intese con altri gruppi per risolvere i propri gravi problemi strutturali, e quindi si intravede un rischio smantellamento dell'istituto. Allora, perché ci interessano le vicende di questa banca franco-belga, come dicevamo? Perché oggi a Salva Danaio vogliamo fare il punto sulla diffusione fra i risparmiatori italiani delle obbligazioni di questo gruppo, obbligazioni emesse dalla controllata italiana di Dexia. La controllata italiana si chiama Dexia Crediop. L'ultimo collocamento obbligazionario risale a giugno, in un periodo in cui l'esposizione di alcune banche nei confronti dei paesi periferici crea non poche preoccupazioni. Le banche francesi stanno dimostrando particolarmente la loro vulnerabilità, ma questo domino poi alla fine c'è. Naturalmente queste vicende hanno suscitato l'immediata apprensione da parte dei risparmiatori italiani, che attraverso le banche italiane hanno sottoscritto questi prodotti obbligazionari. Noi abbiamo sentito anche la banca poco fa, che avrebbe peraltro tutto l'interesse a poter parlare pubblicamente in radio. Al momento ancora non ha l'autorizzazione a farlo, ma noi confidiamo appunto di poter avere l'intervista con il direttore finanziario di Dexia Crediop al più presto. Ci hanno assicurato che la banca è assolutamente solvibile con i detentori di queste obbligazioni, però di fatto noi oggi abbiamo voluto fare un punto della situazione per capire proprio che tipo di prodotti sono in circolazione e che cosa sta succedendo appunto in questa banca dalla Francia e quindi anche all'Italia. Allora, stamattina con noi Matteo Trotta, vice direttore dell'ufficio studi della società di consulenza indipendente Consultic, che saluto. Dottor Trotta, buongiorno. Buongiorno a tutti. Abbiamo interpellato Consultic perché questa società di consulenza finanziaria indipendente in giugno, proprio in concomitanza con l'ultima emissione obbligazionaria del gruppo Crediop, aveva diramato un rapporto molto dettagliato sulle caratteristiche delle emissioni obbligazionarie di questa società, invitando alla prudenza nei confronti appunto di questi prodotti, perché appunto, come vi dicevo in apertura, della situazione di difficoltà di questa banca si parla da tempo, si parla dal 2008, era già stata salvata dal governo francese, da quello belga, con una potente iniezione di liquidità all'epoca, perché questa è una banca che ha in portafoglio, come ricostruisce bene il Sole 24 Ore questa mattina, una bella mole di titoli tossici, passatemi il termine, anche se non è completamente corretto, però ci sono ancora in portafoglio appunto vecchi titoli legati alla crisi dei subprime americani, per cui roba che è molto difficile da vendere e di cui liberarsi, pertanto rimane in pancia alle società e di conseguenza le banche ne devono rispondere. E da anni conosce e ricostruisce le vicende di questa banca anche il collega Salvatore Graziano, direttore di moneyreport.it. Salvatore, buongiorno e grazie di essere tornato con noi. Buongiorno a tutti voi. Ecco, anche questo sito di informazione e consulenza finanziaria ha ricostruito di nuovo nelle ultime ore con un rapporto rapporto molto dettagliato le vicende di Dexia e anche in questo caso naturalmente per cercare di fare chiarezza anche nei confronti dei risparmiatori italiani che appunto detengono questi prodotti. Di fatto questa banca non ha sportelli in Italia, ma come ribadisco appunto colloca i propri prodotti attraverso accordi con le banche, attraverso altri canali distributivi. Le obbligazioni di Dexia Credit Hop sono collocate al MOT, quindi al segmento dei titoli di Stato della borsa italiana, per cui appunto anche per questo motivo basta andare in una SIM e chiedere questi prodotti, un risparmiatore italiano appunto può acquistarli, anche perché con l'ultima con l'ultimo collocamento effettivamente sono anche prodotti che riconoscevano dei rendimenti interessanti. Allora faremo un punto della situazione, se vorrete anche attraverso le vostre telefonate all'800 24 00 24. In alternativa ci potete scrivere al 349 238 6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Il caso Dexia oggi in borsa viene momentaneamente accantonato, il titolo ieri è arrivato a perdere il 37% nel corso della prima parte della mattinata, poi ha recuperato ma ha chiuso con un meno 20, è scivolata sotto l'euro nominale, ma insomma il suo calo è continuo da mesi. Oggi rimbalza di qualcosa come il 3-4%, poca cosa, insieme al listino belga che fa più 2,30, ma il listino belga è composto da appena 20 titoli, è molto piccolo. Molto meglio vanno le altre piazze europee che pure stanno tentando di recuperare i ribassi molto profondi di ieri. Parigi più 2,80, Francoforte più 2,78, Londra più 1,43 e Milano, sotto la scure delle agenzie di rating di nuovo, recupera un più 1,58% sul FTSE MIB. I migliori titoli, rapidamente la successione appunto dei titoli con performance più interessanti: Tenaris più 4,58, TOTS più 4,50, Pirelli più 3,42, Fiat più 3,38, Eni più 3,24, Unicredit più 3, Mediolanum più 2,70. Chi è in discesa invece la Popolare di Milano, meno 3%. Qua ci sono tutte le vicende interne a questo gruppo che movimentano non poco con questo titolo, che peraltro è anche azionista con il 10% di Dexia Credit Hop, insieme alla Popolare dell'Emilia Romagna che perde l'1,15%, anche l'Emilia Romagna ha un 10% di Dexia Credit Hop. La terza banca che ha l'altro 10% italiana è il Banco Popolare, restante appunto 70% di questa società italiana e della casa madre appunto franco-belga di Dexia, che ha il 70% del capitale. E allora andiamo un po' subito a raccontare le vicende di questo gruppo. Salvatore Graziano, aiutami a ricostruire le vicende di questa banca, di questa istituzione finanziaria che ha nel suo capitale una forte componente governativa franco-belga. Questo forse in qualche maniera potrebbe contribuire anche a rasserenare gli animi, perché dubito che questi governi lasceranno fallire completamente questa banca, però il destino dello smembramento, dello smantellamento, della riorganizzazione, non so come chiamarla, mi sembra abbastanza segnato. Allora, tutto comincia con la crisi dei mutui subprime nel 2008. Sì, inizia da lì, riferimentoci alla riflessione che facevi della garanzia franco-belga. Vedendo un po' quello che è accaduto in questi giorni, in queste ore, anche sui titoli Dexia, verrebbe da dire che ormai anche le promesse degli stati non vengono considerate molto affidabili, pensando solo a quello che qualche settimana e mese fa era stata data come garanzia sul debito greco e sui bond greci, e poi i titoli sono scesi ancora ulteriormente, ancora non si vede una chiara via d'uscita. Diciamo che nel caso Dexia invece la strada d'uscita sembrerebbe fortunatamente più semplice, perché non abbiamo tanti paesi europei, tanti ministri delle finanze che devono prendere e discutere facendo finta di capire di quello di cui stanno parlando. Venendo un po' alla situazione di Dexia, sicuramente la situazione inizia nel 2008, perché questa banca, come purtroppo la maggior parte delle banche nel mondo, quindi è anche un po' antipatico parlare di Dexia solo su questi termini, perché se andiamo a vedere i bilanci delle banche molte italiane, ma soprattutto europee, perché su questo non c'è sicuramente da imparare dall'estero, è una banca che all'attività di finanziamento alle amministrazioni pubbliche, agli enti locali, ha iniziato a utilizzare tutti i soldi che poteva per fare un'attività legata all'acquisto di mutui anche all'estero, attraverso l'acquisizione di una società che è stata una delle più grandi perdite poi per questa società, che è una società americana che si chiama FSA, che ha provocato migliaia di miliardi di perdite o di asset, come adesso vengono chiamati, tossici, che vuol dire di fatto avere nel patrimonio delle attività illiquide, non vendibili. E peraltro Attualmente nel bilancio Dexial 2010 queste attività addirittura assommano a 52 miliardi di euro, che una, tenendo conto che è una società che questa ha un patrimonio di circa 9 miliardi di euro, quindi è evidente l'anomalia di una cifra così alta, ma ci sono banche in Europa, perché adesso parliamo di Dexia, ma che hanno attivi rispetto alla parte tossica veramente molto elevati. Se io, per fare qualche nome, visto che i tedeschi vogliono sempre fare i primi della classe, se guardiamo il bilancio di Deutsche Bank, che proprio ieri ha lanciato un profit warning, ha delle attività illiquide che veramente sono nettamente superiori in termini assoluti rispetto a quello di Dexia. Tornando a questo banca, sicuramente i problemi vengono da allora, è iniziata una serie di finanziamenti da parte sia allora da parte dei governi franco-belga, che iniettarono già 6,4 miliardi di euro, ma per una banca con un attivo così importante in realtà quei soldi erano ben poca cosa, anche perché nel corso di questi anni questi asset illiquidi di fatto non sono diventati così facilmente liquidabili, sono ancora lì e il problema ancora non è stato affrontato e risolto perché i mercati non l'hanno permesso e anzi purtroppo è per del gruppo Dexia, parliamo sempre attualmente della controllante franco-belga, credo che parleremo poi dopo della parte nella seconda italiana, parte parliamo delle questioni italiane, sì. Esatto, per la parte della controllante, visto che, per chiudere la storia, a questi problemi diciamo che si porta avanti dal passato e poi se avremo tempo potremo anche capire perché aveva questa situazione finanziaria un po' particolare, si sono aggiunti altri problemi come il fatto di avere un portafoglio investito con un'esposizione ad altri paesi invece titoli teoricamente liquidi ma che in questi mesi sono scesi molto, come i titoli greci, 3 miliardi e mezzo appunto in portafoglio, esatto. I titoli greci, c'è anche da segnalare che hanno 15 miliardi e mezzo di titoli del debito italiano, per cui naturalmente abbiamo tutto l'interesse affinché la situazione si sistemi naturalmente. Detto questo, adesso ci dobbiamo già fermare, Salvatore, ma forse un altro paio di minuti di tempo li abbiamo per spiegare il motivo per cui però la situazione su Dexia, ben nota dal 2008, già salvata appunto dai governi, è di nuovo precipitata improvvisamente a partire dalla scorsa estate, quando in maggio in particolare due agenzie di rating, tanto per cambiare, hanno pesantemente declassato appunto i titoli di questa banca. Cosa è successo? C'è stato un motivo scatenante? Beh, diciamo che dai bilanci risulta abbastanza evidente da semestre in semestre che diciamo questa situazione progressa, non è che diciamo nonostante il piano di ristrutturazione portato avanti dal direttore, dal CEO di Dexia Mariani, ha previsto cessioni, ristrutturazioni, tagli, anche la vendita di alcune attività, fra cui anche Dexia Credit in Italia, in questo momento sul mercato non è così facile riuscire a liquidare e fare tutto quello che è nei libri, non dico dei sogni, ma dei piani aziendali. Ma soprattutto il problema è che la liquidità, il mercato della liquidità negli ultimi mesi è crollato in maniera vistosa, cioè già le banche anche più sane faticano a finanziarsi sul mercato a dei tassi accettabili, questa banca ha sicuramente un problema più che di solvibilità in questo momento di liquidità, di riuscire a finanziarsi a tassi interessanti, perché anche oltretutto avendo un patrimonio tra virgolette tossico, cattivo di asset così difficili da riuscire a liquidare, ha anche abbastanza le mani legate. Certo, non ha garanzie. E a questo poi si unisce la percezione del mercato, che in questo momento quando vede un bilancio situazioni di questo tipo, situazione di presenza nei paesi cosiddetti PIGS, Portogallo, Irlanda, Italia, Spagna e Grecia soprattutto, in presenza importante, ecco, diciamo che Dexia era da tempo considerato un po' il candidato ideale a essere fra le prime società che se l'albero veniva scosso di nuovo rientrare in difficoltà. Un ramo secco appunto che sarebbe caduto. Allora ci fermiamo adesso, peraltro abbiamo anche appreso che i clienti belgi della Dexia ieri hanno ritirato dagli sportelli bancari qualcosa come 300 milioni di euro, la fuga è stata rivelata da un quotidiano economico belga di lingua fiamminga dal nome impronunciabile, la cifra peraltro non tiene neanche conto delle operazioni online ed era stata la stessa banca ad indicare ieri che alcuni clienti stavano ritirando denaro, ma aveva detto la banca non troppo. Certo, 300 milioni di euro saranno praticamente una minima parte dei depositi in Dexia, in ogni caso è un segnale appunto di certo preoccupante questa fuga anche dai depositi. Eccoci ritrovati in diretta a Salvadanai. Oggi affrontiamo il caso della crisi della banca franco-belga Dexia. Ce ne occupiamo perché naturalmente un nuovo caso di crisi finanziaria europea ci preoccupa, perché ovviamente le banche le monitoriamo sempre attentamente, ma soprattutto perché questa banca controlla una banca italiana che si chiama Dexia Credioop, che peraltro ha quasi 100 anni di vita ed è nata nel 1919 come consorzio di credito per le opere pubbliche, con l'obiettivo di indirizzare il risparmio nazionale al finanziamento di opere pubbliche, di infrastrutture per lo sviluppo del nostro paese. Ma questa società naturalmente ha emesso anche prodotti di investimento per piccoli risparmiatori collocati attraverso la rete bancaria italiana, attraverso gli sportelli delle più importanti banche, e adesso naturalmente questa crisi che arriva dal Belgio in particolar modo, ci si chiede se potrà avere anche dei riflessi tra gli obbligazionisti italiani di questi titoli. Ci assicurano che sono due cose separate, ma naturalmente gli ascoltatori sono scattati sull'attenti e sono un po' in allarme. Abbiamo due Antonio in ascolto, anzi in collegamento, al nostro 800 24 00 24. Allora noi li sentiamo. Nel frattempo vi preannuncio già che, se non capisco male da quello che sta succedendo dall'altra parte del vetro qui in studio, siamo pronti a collegarci anche con il direttore finanziario di Dexia Credioop, Stefano Catalano, che credo sia collegato già direttamente con noi. Adesso lo recuperiamo. Dottor Catalano, io l'ho presentata, credo di aver fatto tutto correttamente. In linea? Sì, sono in linea, buongiorno. Buongiorno. Allora guardi, visto che già c'è, prima di sentire anche Matteo Trotta di Consultic, io le faccio ascoltare le preoccupazioni di un paio di ascoltatori, poi lei naturalmente le potrà rispondere come meglio crederà. Antonio dalla provincia di Ancona. Buongiorno, salve, buon dì. Ci dica. Io sono ho comprato, diciamo, sul mercato, sul MOT, due obbligazioni Dexia Credioop. Una è, diciamo, breve, perché scade ad aprile, il 30 aprile 2010, ha un prezzo di carico di 96. Del 2010, del 2012. Del 2012, sì, scusi. Okay. Mentre un'altra, che è un tasso fisso, 4,85, con scadenza marzo del 2016. Questa è una recente emissione, l'ho comprata circa alla pari. Mm. Volevo capire quali sono i rischi, diciamo, finanziari di mantenere, perché i due titoli sono scesi tutti e due. Sì. Chiaramente quello breve è sceso molto di meno, oggi quota intorno a 91, mentre quello, diciamo, lungo è arrivato, diciamo, a circa 57 a valere, quindi la metà quasi di quello che l'ho pagato. Ora volevo capire i rischi finanziari, diciamo, di Credioop S.p.A., che è chiaramente una banca italiana, e della sua, diciamo, capogruppo franco-belga, diciamo, cosa rischio io come risparmiatore. Grazie Antonio, credo grazie che sia il tenore anche della domanda dell'altro Antonio dalla provincia di Roma, che tra l'altro mi pare di capire abbia prodotti simili in portafoglio. Antonio, buongiorno, anche lei ha la scadenza della prossima primavera, vero? Sì, la stessa scadenza, marzo 2012, anche io sono in perdita, una perdita, diciamo, contenuta, quindi vendere adesso oppure portare a termine e sperare nel rimborso. Antonio, lei ha comprato sul MOT o presso un sportello bancario? L'ho comprato sul MOT. Allora, dottor Catalano, so che lei ci teneva particolarmente a rassicurare i sottoscrittori delle vostre obbligazioni sulla vostra capacità, appunto, di essere solvibili, no? nei loro confronti. Certo. Che cosa è in grado di dirci questa mattina? Allora, bene, la prima cosa che volevo affrontare è il discorso dei titoli tossici, che sento molto spesso addossati o comunque uniti alla parola Dexia Credioop. Il concetto di titolo tossico è qualcosa che viene nella recente divulgazione giornalistica ed economica, ed è collegata a mutui che non sono in grado, sono in portafoglio delle banche, che non sono in grado di pagare né il capitale né gli interessi, o ci sono delle regole finanziarie per le quali è complesso capire se questi attivi pagheranno capitale o interesse. Credioop non ha nessuna posizione di questo tipo in portafoglio. L'attività di Dexia Credioop è un'attività che è legata al finanziamento degli enti locali italiani. Gli enti locali italiani hanno, oltre alla garanzia, alla solidità dell'ente locale stesso, un sistema di garanzie di per sé, che sono le delegazioni di pagamento. Quindi vuol dire che c'è una banca che trattiene presso di sé, la banca tesoriale dell'ente locale, trattiene presso di sé le finanze per far fronte ai debiti che l'ente locale ha contratto. Quindi un sistema molto solido, un sistema che non trova, diciamo, rispondenza in altri sistemi economici. L'attivo di Credioop è composto da questo. Ci sono delle attività che sono in difficoltà tra queste, ma parliamo di una cifra di circa 650.000 euro su un totale di bilancio di 41 miliardi, quindi un rapporto tra sofferenze e totale di bilancio che non trova rispondenza in nessuna banca del pianeta, non dico in Italia, del pianeta. Quindi diciamo, da un punto di vista di solidità patrimoniale, di qualità dell'attivo, questo non è sicuramente un punto problematico, comunque che deve destare problemi per i nostri risparmiatori. Andando ai risparmiatori, ecco, voi in questi anni avete collocato obbligazioni presso i risparmiatore retail per circa 6 miliardi di euro, se non ricordo male le cifre, giusto? Allora, complessivamente il Credit ha collocato qualcosa vicino ai 18 miliardi di euro nei confronti dei risparmiatori. Più recentemente sono stati collocati direttamente sul MOT, nel passato attraverso reti bancarie. Credit è stato per lungo tempo il primo e anche il principale emittente bancario collocato da reti terze, quindi diciamo restiamo come uno dei più importanti emittenti da questo punto di vista. L'altra cosa, sento di parlare di prodotti finanziari acquistati da questi risparmiatori, sono innanzitutto delle obbligazioni, la scelta di Credit ormai da molto tempo a questa parte. No, volevo non ho detto precisare. Un prodotto tossico, comunque è un prodotto reinvestimento adesso anche per semplificare. Nel panorama volevo specificare, la nostra decisione è stata da tempo quella di emettere obbligazioni che fossero con un contenuto opzionale, quindi molto basso, molto chiari per i risparmiatori, quindi tasso fisso, tasso variabile e modeste condizioni opzionali. Detto questo, quello che interessa però diciamo alla fine ai nostri risparmiatori è Credit è in condizione di poter far fronte al debito che ha contratto, perché questo poi è fondamentalmente la domanda che ci viene fatta. E la risposta è sì, Credit in questo momento, come altre banche italiane, ha una situazione di liquidità sensibile, quindi dobbiamo far fronte a un mercato che dal punto di vista della raccolta è diventato più competitivo del passato, se questo è possibile, è sicuramente più costoso del passato, ma dal punto di vista della nostra capacità di accedere al mercato, la nostra capacità dei sistemi interni di far fronte alle scadenze obbligazionarie, questo diciamo non è stata assolutamente intaccata, quindi da questo punto di vista credo che è solvibile per far fronte al ripagamento e degli interessi e delle obbligazioni. Ecco, però naturalmente gli ascoltatori, come ci hanno ben rappresentato i due Antonio che ci hanno chiamato, sono estremamente preoccupati per il drastico crollo dei prezzi che queste obbligazioni hanno subito appunto per le vicende recenti della casa madre, perché poi naturalmente dottor Catalano, lei lo può riconoscere, appunto questo è inevitabile. Questa situazione peraltro che si sta manifestando già da qualche tempo, soprattutto da quando le agenzie di rating, lo ribadisco, in maggio hanno emesso un verdetto negativo appunto sul debito della casa madre, questa situazione si sta verificando da maggio, situazione che ha portato alcune società di analisi, come ha fatto Consultic, adesso ce lo faremo raccontare, a esprimere una raccomandazione molto precisa alla propria clientela su come maneggiare questi titoli, ma soprattutto c'è stato il comportamento, io so che l'ha fatta molto arrabbiare, di una grande banca italiana che ha inviato una lettera a molti possessori di bond Dexia Credit Hop con sostanzialmente l'invito a recarsi presso la propria filiale per verificare l'esposizione in portafoglio su questi titoli, sulle emittenti ed eventualmente verificare e valutare per opportune azioni correttive, diceva Banca Intesa San Paolo, lo dico chiaramente perché tanto è una situazione abbastanza nota. Lei so che si è molto arrabbiato su questo atteggiamento e aveva espresso con grande durezza appunto il suo commento rispetto a questo atteggiamento, dottor Catalano, perché? È giusto avvisare i risparmiatori del cambiamento del rating di un titolo che è stato messo nel proprio portafoglio, su questo sono più che diciamo d'accordo con il comportamento seguito da alcune banche. È giusto anche renderli edotti dei rischi che sono in portafoglio, però tutto questo va messo poi anche in una prospettiva più ampia. A me non risulta che i risparmiatori sono stati avvisati del deterioramento progressivo e importante dei titoli greci. E dall'altra parte è vero che un'agenzia di rating ci ha portato a un livello BA2 su cui noi siamo totalmente in disaccordo, abbiamo espresso anche diciamo con comunicati stampa il nostro disaccordo nei punti importanti, ma le altre due agenzie di rating, Standard & Poor's e Fitch, ci tengono ancora a un livello A- e a singola, quindi a un livello che sostanzialmente è pari alla media delle principali banche italiane. Quindi insomma ritiene che questa banca abbia utilizzato un atteggiamento discriminatorio in qualche maniera nei vostri confronti, sarebbe stato se giustificato? Discriminatorio è certamente un pochino eccessivo. Un pochino eccessivo, che ha certamente portato i livelli del nostro debito a un valore di assoluto che non rispondevano alle situazioni patrimoniali di Exterredio, perché ricordo avere ancora al 30 giugno di quest'anno un Tier 1 del 16,4% e utili in bilancio per la prima parte dell'anno di 44 milioni. No, poi magari ricordiamo anche che questa storia del Tier 1 è abbastanza importante, un termine naturalmente che ci va indigesto e molti ascoltatori non lo capiscono, ma è l'indice della solidità patrimoniale delle banche. Siccome tra Basilea e le istituzioni europee chiedono alle nostre banche di continuare a rafforzare questo parametro, e anche le banche che hanno un livello di Tier 1 più forte ce l'hanno al di sotto del 10%, se non mi ricordo male, tra l'8 e il 9, qualcosa del genere, un 16%, questo glielo devo riconoscere, mi sembra un dato tutt'altro che trascurabile. Allora, le obbligazioni Dexia Crediop alla luce della crisi della casa madre franco-belga Dexia. Molti ascoltatori hanno in portafoglio questi titoli obbligazionari, queste obbligazioni bancarie. Abbiamo sentito poco fa il direttore finanziario di Dexia Crediop, Stefano Catalano, che ha voluto rassicurare appunto la platea degli investitori in questi titoli. Una società di consulenza indipendente, Consultic, che ospitiamo spesso a Salvadanaio, in giugno aveva diramato questo rapporto. Dexia Crediop, quando i bond tremano, a pagina 11, la ricetta Consultic: sbarazzarsi subito dei bond a medio-lungo termine che hanno risentito meno della flessione rispetto ai titoli a breve, che tra l'altro era anche nel portafoglio dei due ascoltatori che abbiamo sentito prima. Non comprare il nuovo bond Dexia oggi in emissione, ci si riferiva all'emissione appunto di quel momento, quella di giugno scorso, e ridurre l'esposizione appunto su questi titoli. Trotta, alla luce delle rassicurazioni date da Catalano, oggi la pensa ancora nella stessa maniera? Beh, direi di sì. I nostri giudizi comunque diciamo così prescindono dalla valutazione del singolo titolo, perché noi non valutiamo mai il singolo titolo in sé per sé, come se fosse l'unico strumento all'interno del portafoglio, ma lo giudichiamo in un ambito di asset allocation. Noi siamo usciti con quella nota nel mese di giugno in occasione di una nuova emissione da parte di Dexia Crediop di un'obbligazione con scadenza di medio periodo con un tasso fisso pari al 5%. Molti ci chiedevano se era il caso di sottoscriverla o meno. Dexia veniva da un periodo abbastanza difficile, si è ricordato prima il downgrade da parte di Moody's, c'era stato anche il downgrade sulla solidità finanziaria complessiva della banca, e c'era stata una forte tensione sulle obbligazioni, soprattutto quelle di breve periodo. C'era stata un'inclinazione anche diversa della curva, cioè le obbligazioni a breve addirittura rendevano di più rispetto a quelle a medio-lungo termine. Comunque, in generale, valutando questo singolo titolo, in funzione di tutto ciò che stava accadendo e in funzione anche del settore di appartenenza, ovvero il settore bancario, che da 2-3 anni a questa parte è sempre nel pieno dell'occhio del ciclone, abbiamo sconsigliato l'acquisto di questo titolo perché aveva un rapporto rischio-rendimento troppo elevato, un rendimento che ci veniva garantito da altri emittenti appartenenti al settore industriale, che in quel momento e tuttora ci garantiscono una minor volatilità sul prezzo. Perché è vero che qui adesso si sta parlando della solvibilità di un emittente, però noi dobbiamo considerare anche il durante. Quando un'obbligazione scende a 60, 70, 50 e così via. Che è l'osservazione che stanno facendo, glielo dico per dovere di cronaca, molti ascoltatori che ci stanno scrivendo al 349-238-6666, insomma. Ecco, diventa una situazione abbastanza complicata da gestire, e gli interrogativi sono molti. Poi il giudizio veniva anche dato in funzione della liquidità di un titolo, perché un titolo quando va al MOT, a questo titolo non viene garantita la liquidità, cioè non c'è un market maker che garantisce una quotazione di un prezzo in linea con il grado di rischio dell'emittente. Lo stiamo vedendo in questi giorni, i prezzi sono crollati non perché Dexia debba fallire domani, ma perché su questo mercato vanno i singoli risparmiatori che non sanno qual è il prezzo di equilibrio, il reale prezzo di mercato di un titolo, per cui fanno dei prezzi molto, tra virgolette, lontani dalla realtà. anche stamattina vediamo alcuni titoli con dei prezzi sospesi proprio perché c'è una differenza fra prezzo di acquisto e prezzo di vendita notevolmente elevata. Questi sono tutti elementi che noi ponderiamo quando dobbiamo giudicare un titolo e quindi se questo titolo deve far parte o meno di un asset allocation. Dottor Catalano, io le faccio naturalmente replicare rispetto a tutte le osservazioni del nostro analista di Consulti, che le metterei insieme anche un altro paio di osservazioni di qualche altro ascoltatore che lo stesso è a caccia di rassicurazione questa mattina, per poi già concludere purtroppo la trasmissione perché abbiamo appena 5 minuti di tempo. Carla da Milano, buongiorno, rapidissima se ce la fa, grazie. Sì, ci provo. Io ho acquistato dalla banca Intesa. Dexia Prud, che potente S113 TM, questa è la sigla del titolo. Volevo sapere se ci sono le stesse, se ho capito bene, garanzie che, di cui si è parlato adesso come Dexia Crediop. Beh, immagino di sì, Carla, anche sì. Perché quelli, dottor Catalano, circolanti proprio con la banca di cui abbiamo parlato poco fa, questi sono. Posso farle sentire anche Sergio da Milano rapidissimamente, così almeno concludiamo il cerchio. Sergio, buongiorno. Buongiorno. Senta, 2 mesi fa mi arriva la lettera di Intesa Vita che mi dice che io ho dei prodotti dentro dalla Dexia. Sì. Con 2 assicurazioni, una scadente 2012 e una scadente 2014. Ma scusi un attimo, io quando faccio Intesa Vita do i soldi a Intesa San Paolo, noi non siamo più dopo garanti dei Lo so, Sergio, questo è il caso come quando si sono comprate le polizze assicurative presso gli sportelli postali nel 2008 e si è scoperto che erano delle polizze a contenuto finanziario e avevano dentro Lehman Brothers. Purtroppo bisogna farsi spiegare molto bene la tipologia di prodotto, non è che le voglia adesso sgridare o in qualche maniera commentare in maniera negativa appunto il suo operato. Detto questo, sono prodotti che circolano, poi adesso vediamo qua chi risponde qualora il contenuto finanziario di questa polizza vita appunto non andasse bene. Dottor Catalano, da dove vuole cominciare? Allora, io posso dire che Dexia Crediop non è Lehman Brothers, quindi può dormire tranquillo. No, però molto spesso le persone comprano un certo tipo di prodotto, non sanno bene che cosa c'è dentro e questa è un'altra occasione per poter fare appunto questa raccomandazione. Se volete comprare un'assicurazione sulla vita a radicale contenuto, come dire, a protezione di un certo tipo, bisogna anche esaminare che dentro non ci sia il contenuto finanziario, ma questo è un altro discorso. Dottor Catalano, mi scusi. Allora, io non contesto le valutazioni tecniche del signore che ha parlato prima di noi, di Consultic, che diciamo sono modelli che ognuno ha, può utilizzare per valutare l'adeguatezza o meno di un investimento per la propria, per il proprio portafoglio. Su un punto però diciamo non mi trovo totalmente d'accordo con il vostro esperto, e sul mercato MOT quello che abbiamo fatto noi come scelta strategica è quella stata di utilizzare molto più il mercato MOT piuttosto che mercati meno trasparenti che generalmente sono sotto controllo della banca rete che ci ha distribuito e dove veramente non c'è nessuna trasparenza, nessuna sicurezza di poter realizzare, liquidare e a che prezzo vendere il titolo. Certamente il MOT ha le sue pecche, l'assenza diciamo sistematica di market maker che lo fanno per professione piuttosto che per mandato dell'emittente. Crea certamente questo problema di far mancare in taluni momenti la domanda in momenti come questo. Il mercato è perfettibile, però diciamo dall'altra parte secondo me per un emittente bancario in generale, per un emittente che emette obbligazioni, non poter contare su un mercato come il MOT, come un mercato così trasparente che consente a tutti l'entrata e di scegliere tra diverse alternative, certamente mi sembra piuttosto un miglioramento piuttosto che un problema. Il mercato certo va migliorato. Dottor Catalano, l'ultima, io lo so che lei questa domanda non se la vorrebbe sentir fare, però ho 40 secondi di tempo e siccome mi stanno tempestando molti ascoltatori, allora vogliono sapere in caso di, io non vorrei parlare di fallimento perché magari poi in termini come, cioè sicuramente la Dexia franco-belga verrà smembrata, verrà creata come racconta il Sole questa mattina una bad bank con gli asset appunto problematici. Detto questo, qualora questo scenario si delineasse nel giro di qualche mese, un anno, non lo so, per la Crediop italiana? Beh, diciamo, questo è materia di discussione, è una materia che sta a livello dei ministri francesi e belga, è frutto di molte indiscrezioni giornalistiche che vediamo sulle 24 ore o su altri giornali. Quello che posso dire è che la strategia, il pensiero di questa azione è che il gruppo nella sua interezza o nelle sue singole parti non andrà verso nessuna situazione di difficoltà. L'intervento viene fatto per questo. Bene, io purtroppo devo concludere qua perché non ho più tempo. Qualora ci fosse la necessità di ritornare su questo argomento, la richiamerò, dottor Catalano, però grazie per essere intervenuto grazie tempestivamente mille, su nostra sollecitazione. Ringrazio anche Matteo Trotta e Salvatore Graziano per essere stati con noi. Salvadanaio torna domani, parleremo di un altro bel tema, ritorniamo sui mutui, così siete tutti contenti. A domani.